Gustavo Rossi. Oggi può arrivare da parte forma a Roma e ci siamo in dolore e via ciò. In forma di forma normale di milioni e quattro. Detto. Sì, no, butta Thank you.